Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, oggi parleremo di un argomento credo che interessi molto, che è il vino, ma in particolare tutto quello che gira attorno al vino, diciamo le dicerie o le regole, soprattutto le regole. Le regole che sicuramente molte volte sono accettate, altre no, altre volte sono messe in discussione. Però molte volte le regole diventano dei luoghi comuni sui quali poi non si ragiona più e non si cambia. Oggi parleremo proprio di questo. Parleremo dei luoghi comuni. Cosa intendiamo per luoghi comuni? Beh, tanto per fare un esempio, che bisogna bere le bollicine nella flute, per esempio, che ormai è una cosa quasi meccanica. Se si siede, si chiedono le bollicine, ti arriva questi bicchieri lunghi e stretti, secondo me veramente che non servono assolutamente a nulla, però questo è il mio parere. Io sono contro la flute e la respingo sempre al mittente. Oppure che bevendo un rosso e un bianco può far male, come si dice qualcuno, no, bisogna bere lo stesso vino, no cari radioascoltatori, forse bisogna bere meno e non il bianco, un bicchiere di bianco poi di rosso, che possono far male alla salute o dare delle noie. Bene, insomma, parleremo di tutto questo. Anzi, io chiedo se ci sono molti radioascoltatori che hanno altri luoghi comuni da smentire o da confermare. Per carità, siamo liberi di accettare ogni discussione. Numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Bene, cominciamo. Ho detto bollicine. E allora abbiamo con noi il vicepresidente dell'Associazione Italiana Sommelier, Roberto Bellini, che è anche vicepresidente della WSA, che è l'Organizzazione Mondiale dei Sommelier, al quale io chiedo, visto che sono così rigorosi di solito i sommelier, ma la flute è veramente il bicchiere più adatto per bere bollicine, siano esse champagne o spumante? Buongiorno a tutti. Beh, Davide, hai ragione, insomma, questa flute ha invaso un po' il modo di bere tutti i vini che contengono la CO2 ed ha, insomma, danneggiato l'immagine di questo modo di bere. Viene un po' da una tradizione lontana, un po' una diatriba fra il modo di bere inglese e il modo di bere francese, la coppa, la flute, ma fondamentalmente tutti e due bicchieri che per le bollicine sono alquanto negativi. Ecco, tu cosa consigli di berlo invece, le bollicine? Le bollicine è un tipico bicchiere dal bevante da Chardonnay, insomma, bello, ampio, dove ci sia una giusta misura fra l'espressione della CO2 e l'aromaticità del vino, perché fondamentalmente noi non dobbiamo avere la CO2, dobbiamo avere il vino che accompagna la CO2. Ecco, tu hai detto bicchiere da Chardonnay, siccome magari i nostri radioascoltatori non tutti possono sapere cos'è un bicchiere da Chardonnay, cioè il bicchiere tipico da bianco, diciamo così. Il tipico bicchiere da bianco, insomma, tipico. Ci sarebbe anche da fare una diversificazione in merito al modo di bere i vini che sono ottenuti, come sai, da uve nere anche vinificate in bianco, cioè il bicchiere da pinot nero, da vino rosso, per il champagne o i vini fatti, cioè un Franciacorta o un Trento fatto con una dose di pinot nero, e quelli fatti con le uve bianche, il bicchiere da vino bianco. Si dovrebbe fare anche questa diversificazione. Bene, rimani con noi. Beh, certo. Sentiamo ora un produttore di Franciacorta IOCG, che è presidente del consorzio di Franciacorta, Maurizio Zanella. Cosa ne pensa un produttore a proposito? Buongiorno Maurizio. Buongiorno a tutti i gastronauti. La frutta è un bicchiere sorpassato, un bicchiere che ha un retaggio da quando si voleva far vedere la bollicina che saliva lungo un bicchiere di altezza superiore. Il bicchiere più adatto, come dicevate giustamente prima, è un bicchiere molto ampio che però finisca stretto alla base, quindi che abbia comunque un inizio che favorisca lo sviluppo e la visione del perlage, per poi, quando è un grande vino, vedere la corona nella parte superiore. Detto questo, il flute bisogna forse anche spiegare perché non è il bicchiere più adatto, e se ne ho il tempo lo faccio volentieri. Hai poco, magari cerca di essere conciso, sentiamo. Primo è per un fatto ergonomico, perché qualsiasi persona che ha un naso normale non riesce a portare in bocca il liquido se non assumendo la posizione da cormorano, che non è ergonomicamente corretta quando uno mangia o beve. Il secondo è perché non si riesce mai a asciugare il fondo della flute dopo che è stato lavato. E il terzo, perché i grandi Franciacorta, i grandi champagne, hanno come minimo 3-4 anni di invecchiamento e necessitano assolutamente di ossigenarsi quando vengono bevuti. Bene, grazie a Maurizio Zanella, ti ringrazio di questa descrizione così tecnica. Io ricordo numero verde 800 24 0024, messaggi SMS 349 238 6666. Chiedo a Roberto Bellini qual è la temperatura giusta per servire le bollicine. Molti dicono molto fredda, altri invece dicono di no. Ecco, allora chiedo, c'è una temperatura diciamo media per tutti, senza sottilizzare sull'uno o sull'altro? E anche qui c'è una serie di luoghi comuni che potrebbero essere fatali sotto un certo aspetto, perché noi abbiamo una tradizione di bere qualunque bollicina ad una temperatura molto più bassa di quello che succede nel nord d'Europa, e questo è determinato dal fatto che il nostro mercato è più propenso a vini con base Chardonnay, quindi praticamente vini bianchi che vanno serviti più freschi. Nel momento in cui si alza la percentuale di uve nere dentro uno champagne, un Franciaforte, un Trento, un Oltrepò Pavese, la temperatura potrebbe essere tranquillamente aumentata fino a raggiungere gli 8, 9, 10 gradi, fino ad arrivare anche a 12 gradi, qualora, come dice giustamente il presidente del consorzio della Franciacorta, si va a bere un vino che è stato 4, 5, 6 anni sui lieviti, quindi maturato, allevato, e ha bisogno di riossigenarsi. Un po' più di temperatura potrebbe fargli solo bene. Grazie a Roberto Bellini. Sentiamo Fabio, un radioascoltatore della provincia di Latina. Buongiorno Fabio. Buongiorno. Senta, vorrei sapere quanti chili di uve ci vogliono per fare un litro di prosecco. Beh. Per via massimale ovviamente, e per far sì che sia un buon vino, per creare le bollicine, dove deve fermentare, quali prodotti ci mettono dentro, diciamo. Beh, caro Fabio, purtroppo io non ho il disciplinare sotto mano del prosecco. Ogni vino DOC o DOCG ha delle rese per ettaro molto, molto particolari, quindi il prosecco avrà una resa che io non credo supererà i 100, però chiedo se c'è qualcuno in linea o qualche radioascoltatore, qualche produttore di prosecco, magari può intervenire per darci esattamente la resa per ettaro per quanto riguarda appunto questo vino che negli ultimi anni ha avuto così grande successo. Bene, continuiamo così a vedere, far cadere qualche luogo comune o farlo crescere, perché no, farlo diventare una regola giusta. Abbiamo con noi un suggeritore di vino davvero molto molto importante, che è Giuseppe Palmieri dell'Osteria della Francescana di Modena. E allora Giuseppe, io voglio chiedere questo. Giuseppe, di solito la tendenza è normale di dire il vino bianco deve essere servito molto freddo, il vino rosso no. E sembra che ormai sia diventata una regola a cui diciamo tutti si adeguano. Ma io credo che ci possano essere dei vini rossi che vanno serviti freschi, diciamo a temperatura, non dei bianchi diciamo più estremi, ma sicuramente sì, e dei vini bianchi, a cominciare da quelli naturali, che non vadano usati molto freddi. Tu cosa ne pensi? Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Hai toccato proprio l'argomento che speravo di discutere, perché credo che la cultura della temperatura di servizio sia un argomento tutto da sviluppare. Molto spesso siamo tutti vittima di copia e incolla, no? Ci riferiamo a quello che è la nozionistica fondamentale. Oppure al dietro etichetta, oppure alla controetichetta di molti produttori di vino. Ma non solo, però l'approccio deve essere comunque sviluppato a quello che è un prodotto. Facciamo un piccolo passo indietro che comunque poi ci porterà alle temperature. Lo stesso champagne, no? Rischia di diventare vittima dell'aperitivo, ma è sbagliato. Immaginate fare un percorso per cui si decide di cominciare con un rosso, che può essere un pinot nero italiano, se è dell'Alto Adige, di una zona boccata, o magari della Borgogna, no? la patria potestà, ad una temperatura di servizio adeguata, cioè bello fresco. Se è estate, perché no? Più che fresco, il pinot nero ad una temperatura più bassa diventa davvero performante, godibile, piacevole. Immaginate un grande crudo, immaginate di essere da Mauro Liassi e di bere un pinot nero fresco, dopodiché scegliere un bianco minerale, grasso, può essere una ribolla del Collio piuttosto che un Riesling tedesco, dove necessariamente le temperature, se non sono proprio bassissime, permettono al vino di mostrare una densità superiore, perché diventa meno scivoloso, perché è meno freddo, e poi concludere il pasto con una grande Franciacorta, un grandissimo prosecco o un grande champagne, sì, fresco, in un bicchiere adeguato. Questa è una maniera di interpretare, no, anche il proprio gusto personale, non deve essere necessariamente una scuola di pensiero, però è una maniera di fare in maniera diversa. Grazie Giuseppe, rimani con noi perché ti leggo alcune cose. Innanzitutto una risposta al precedente radioascoltatore, ci scrive Pier Giovanni da Padova: a me risultano tanti quintali ad ettaro per quanto riguarda il prosecco. Ma a proposito di rosso, un altro radioascoltatore dice: sono un appassionato di vini rossi, ma non riesco a berli a temperatura ambiente, devono essere freschi. Quindi rientriamo un po' sicuramente, poi dopo c'è una domanda interessante che voglio rifare a Palmieri, però ora sentiamo Daniela dalla provincia di Treviso. Buongiorno Daniela. Buongiorno, volevo dire questo, che in un ristorante alle porte di Treviso servono il prosecco abbastanza fresco in un bicchiere che sembra un bicchiere da degustazione di rosso, tipo la classica boccia, però partendo dal fondo ha ben 4 gradini in salita e poi si richiude verso l'alto. Assaggiare il prosecco in quel bicchiere o in un flute cambia completamente sapore. Bene, grazie Daniela della testimonianza che ci dà parte ragione. Ora abbiamo con noi un altro esperto, abbiamo un giornalista siciliano molto bravo che ha un sito importante che è Cronache di Gusto, Fabrizio Carrera. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno a tutti. Allora, con te il luogo comune che voglio smentire è questo: di solito si dice sempre, quando si parla del sud, si parla di vini bianchi, sembra che il sud abbia solamente vini bianchi. Quando parli con la gente e dice sono stato al sud in vacanza, immediatamente parlano vini bianchi. È un luogo comune questo, perché ci sono grandi rossi al sud. Direi proprio di sì, guarda, dobbiamo sfatare questo luogo comune, perché è vero che la Sicilia produce più bianchi che rossi, ma questa tendenza ormai si è invertita moltissimo negli ultimi tempi, e poi soprattutto credo che siano più apprezzati proprio i rossi dal grande pubblico. I bianchi hanno qualche problema, e credo di interpretare anche il pensiero di tanti esperti del vino, che forse la Sicilia ha un clima che per i bianchi non è che proprio sia il massimo. Fare bianchi e conservare profumi è difficile in Sicilia a causa delle nostre temperature. Discorso a parte, ovviamente l'Etna e qualche altro micro terroir dove in effetti si riescono a fare anche dei grandi bianchi. Ecco, tu recentemente hai fatto dei forum Sul futuro del vino siciliano. Cosa emerge? Il bianco o viene fuori alla grande il rosso? Ma guarda, secondo me, proprio perché la Sicilia o comunque il sud in generale, secondo me può giocare le sue carte soprattutto sui rossi. Alla fine i rossi prevalgono, e quindi bisogna appunto insistere di più per invertire questa tendenza, perché poi negli anni 80 e 90 la Sicilia era piena di uva Trebbiano coltivata a tendone, e lasciamo perdere, quella è stata per fortuna un pezzo di storia che ormai alle nostre spalle da molto tempo, e quindi oggi secondo me bisogna puntare sui rossi e cercare di migliorare anche il Nero d'Avola, per esempio. Oggi forse magari non se ne parla più tanto, è stato sulla cresta dell'onda, oggi forse un po' inflazionato, però secondo me sì, ha ancora molto da dire. E secondo me io punterei su quelli. È chiaro però che io, ti confesso, da qualche tempo sono bianchista, non so perché, ma di fatto comincio a privilegiare e a prediligere i bianchi, e devo dire che cerco di scoprire anche qualche cosa di buono tra la Sicilia e il resto del sud. Bene, grazie Fabrizio Carrera. Sentiamo Maurizio da Roma, radioascoltatore. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a tutti, buon lavoro. Senta, volevo dire, io sono stato all'estero, sono uno chef di ex chef di cucina. Perché in Italia si insiste anche col bianco a portare bicchieri grandi, quando noi andiamo all'estero il bicchiere deve essere il più possibile per mantenere il suo fresco e il suo aroma? Beh, non è che... sempre da tutte le parti, ma anche per gli aperitivi, per tutti questi bicchieri strani, grossi. Si apre una bella bottiglia, conta solo il bicchiere, non conta la caraffa per decantare, non conta il bicchiere. Beh, sulla caraffa da decantare poi faremo un discorso poi sulla caraffa da decantare. Grazie Maurizio. Sentiamo Giuseppe Palmieri, cosa ne pensa di questo? Quello è una dimostrazione anche di grande vantaggio per quello che è la sensibilità di chi opera in Italia. Tra l'altro bisogna riconoscere anche il merito a gente come la Cristina, Franceschetti e Alessandro di Spigola, di aver viaggiato l'Italia per comunicare la cultura del bello e della qualità di un grande bicchiere, quindi sì, sicuramente. Bene, grazie. Sentiamo Alberto dalla provincia di Alessandria. Buongiorno Alberto. Sì, buongiorno a lei. Volevo solo sapere, se visto che ci sono degli esperti, se la questione dell'imbottigliamento legata alle fasi lunari a una sua scientificità, oppure è una tradizione legata ad altri tempi, nel senso che la produzione era diversa, aveva metodologie diverse e soprattutto tecnologie diverse. Bah, guardi, sicuramente è una, diciamo, è un modo di pensare rurale nel tempo, però ultimamente la biodinamica e alcuni grandi esperti hanno rilanciato questo tipo di discorso, quindi ci sono molti produttori che seguono queste metodologie, quindi che sia scientificamente dimostrato o meno, questo è tutto da vedere, però viene praticata anche con grande successo. Leggo comunque che mi è arrivata ancora la risposta del Prosecco, è 135 quintali per ettaro il DOCG, 180, il 135 quintali il DOCG, 180 la DOC, è un signore di Conegliano, quindi facciamo fede. Voglio leggere, per favore, dite che con i dolci non si deve per forza bere uno spumante secco. Giuseppe Palmieri, rispondiamo? Pronto? È caduta la linea, purtroppo. Bene, poi continueremo con questo, secondo me molto interessante, sui dolci finali, cosa bere, anche qui ci sono sicuramente delle tendenze molto particolari. Devo dire che ricevo sempre di più il discorso di molta gente che beve i rossi, non li beve più a temperatura ambiente, e gente che i bianchi non li beve più molto freddi, quindi sicuramente c'è una cultura che si sta evolvendo in questa direzione. Devo ancora rileggere, riguardo i vini bianchi e rossi, per me ogni pietanza deve aver abbinato un suo vino, perciò si possono tranquillamente bere i rossi e i bianchi insieme, non insieme ma sicuramente alternati, non insieme, uno dopo l'altro abbinati con delle pietanze. Palmieri, buongiorno di nuovo, volevo sapere, dolci con lo spumante secco, cosa ne pensi? Anche lì è difficile, anche perché si sta avvicinando la cultura davvero forte del salato nel dolce, e molto spesso se si è fatto un percorso non è detto che con il piatto finale dolce o dolce salato non sia il caso di avere l'intelligenza di bere magari solo un buon bicchiere d'acqua. La cultura della qualità vuol dire anche sempre meno e sempre meglio. Sconsigliamo assolutamente di bere un grande champagne o una grande bollicina italiana a fine pasto, magari con dolci al cioccolato d'altro. Questo sì, sicuramente. Questo indiscutibilmente. Bene, voglio leggere una. Ne arrivano tanti di SMS dei nostri radioascoltatori che ora chiedono molte cose. Un radioascoltatore da Milano chiede: può andar bene le bollicine in una coppa tipo quella di Moscato? Del resto non si diceva del seno perfetto a coppa di champagne? Allora lo chiedo a Andrea Grignaffini, direttore creativo della rivista Spirito Divino. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti, buongiorno a te. Ciao Davide. Allora abbiamo già detto di no, però volevo fartelo sentire dire anche a te, insomma. Cioè la coppa tipo quella di Moscato sicuramente per un grande champagne o un grande bollicino italiano è probabilmente meglio lasciarla perdere. Tu cosa ne pensi? No, almeno in questo sicuramente è una, diciamo, questa qui è una tradizione che, diciamo così, è nata, come ben sappiamo, quando lo champagne era dolce, e quindi la coppa potrebbe essere un ottimo motivo magari di brindisi con uno champagne doux, che sono rarissimi, o demi-sec o sec, che peraltro ce ne sono anche di parecchio buoni, per un finale di pasto, ma sicuramente da sconsigliare per uno champagne classico. Ecco Andrea, un'altra cosa, un altro, diciamo, non è un luogo comune, questo è abbastanza discutibile, però mi piace metterlo, diciamo, in discussione. Molti scaraffano i vini, diciamo, a lungo invecchiamento, altri assolutamente si oppongono. Qui qual è il luogo comune? C'è, oppure hanno ragione tutte e due, diciamo, le tesi a confronto? Ma guarda, allora, secondo me scaraffare ha due significati. In uno, ossigenare il vino, e in questo caso molte volte è più funzionale la scaraffatura con vini piuttosto giovani che hanno bisogno di aprirsi, mentre vini vecchi una scaraffatura, quindi un'ossigenazione improvvisa e brutale, rischierebbe di rovinarli. Molte volte la scaraffatura, qui entriamo un po' nel tema dei luoghi comuni che hai centrato, è quello di dare una sorta di, così, di ampollosità al servizio, di quella ridondanza, e quindi il cliente percepisce dal gesto, dalla ritualità del sommelier, tutta la potenza evocativa anche del gusto del vino, ma in realtà è più funzionale allo spettacolo che al, certo, che al gusto. Rimani con noi Alberto dalla provincia di Padova, un radioascoltatore. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Dunque, uno dei luoghi comuni con lo champagne è che è un vino bianco, frizzante, spumante, eccetera, che si può bere con gli aperitivi oppure con i dolci. Invece ci sono degli champagne che si possono bere solo con la selvaggina, e questo è dovuto alla composizione del vino. In sostanza usano il Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay, e il Pinot Noir, a seconda della proporzione che usano nella composizione dello champagne, diciamo si avvicina certo, a un vino abbastanza ai grandi vini della Borgogna. Bene. Che sono tipicamente dei rossi. Ecco, bene, allora sentiamo dire. Leonardo Romanelli, giornalista fiorentino, molto, molto bravo, tra l'altro autore di una pièce teatrale sul sommelier. Leonardo, hai sentito? Allora con la selvaggina possiamo mettere lo champagne. Buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, beh, il discorso della selvaggina sicuramente è interessante, ma dipende da come viene cotta, e credo che ci sia un abbinamento particolarmente azzeccato, ma in certi casi ricordiamoci che selvaggina è sempre una cottura, una carne senza grassi, e quindi uno champagne che normalmente tende a sgrassare, bisogna sempre tener conto quindi come la si cuoce, e soprattutto se magari lo champagne è uno di quelli un pochino più opulenti, più ricchi, allora ecco che può avere un ottimo abbinamento. Sentiamo Maurizio, un radioascoltatore dalla provincia di Milano. Buongiorno Maurizio. Buongiorno, senta, io premetto che non è che sono nato di vini, però avevo delle certezze. Tanti anni fa si parlava di bere lo champagne nella coppa proprio da champagne, quella con la larga. Poi si è cominciato a dire che bisognava berlo nel flut, comunque sempre freddo. Adesso mi venite a dire che bisogna berlo anche non freddo. Cioè, non pensate di perdere un po' di credibilità continuando a cambiare versioni? Ma chi, scusi, chi è che perde credibilità? Io ho mai detto che va bevuto caldo, oppure io ho sempre detto che non si beve mai nella flutta, anzi la butto via, non la voglio manco vedere sul tavolo. Però sentiamo Andrea Grignaffini. Ma anche qui in realtà un po' certi dati un po' così esposti in modo un po', diciamo così, apodittico, vengono da una sommellerie piuttosto, diciamo, vetusta e quindi anch'io sono per molta una libertà di azione da parte del cliente e anche del tecnico. In realtà secondo me bisogna studiare bene di che champagne trattiamo, di che invecchiamento ha, di che tipologia è, quindi in realtà ci può stare un po' tutto. Anch'io sono dell'idea che la flute, nonostante poi uno vada nelle maison francesi, certo, sia un po' il bicchiere di riferimento, sia uno dei più sconsigliabili, a meno che non siano quelle belle grandi che diano anche un po' di risalto ai profumi, che in realtà poi nello champagne diventano anche molto evolutivi nel bicchiere. Leonardo, sentiamo anche Leonardo, perché questo è caduta la linea. Bene, allora leggiamo qualche sms interessante. Mi parlano del fragolino, non può essere commercializzato. Eh sì, caro amico, il problema del fragolino ormai è un problema vecchio come il cucco, anche se magari il fragolino si trova ogni tanto magari dietro al banco di qualche osteria. Vero Andrea? Si trova, si beve ogni tanto. Sì, sì, sì, tanto si beve, non dovremmo dirlo, il problema è effettivamente vecchio come il cucco, non si dovrebbe trovare, poi lo si trova, alcuni l'hanno poi, hanno trovato un po' la chiave di volta di commercializzare un vino con la fragola, che si chiama fragolino. In realtà il fragolino tradizionale, per motivi che sappiamo bene, non dovrebbe essere commercializzato né venduto. Non so in realtà se si può utilizzare a livello privato in casa propria. Beh, però penso qualche di... dubbio. Sì, sicuramente, però molti lo fanno. Leonardo Romanelli, volevo chiederti questo, diciamo che lo champagne ormai ne abbiamo già parlato tanto, volevo chiedere il fine pasto sul dolce, no? Qui anche ci sono molte, c'è un'abitudine, secondo me, un luogo comune, durante le feste, cosa si fa? Sì. Quando arriva il dolce finale, tac, si apre o lo champagne o una grande bollicina italiana. È noto che il dolce con bollicine secche o d'altro è quasi impossibile accostarle. Tu cosa ne pensi? Sono assolutamente d'accordo che sia impossibile, è una visione un po' arcaica, un po' come quando il giovane doveva andare col padre a farsi del male buttando giù un grappino per dimostrare che era appunto uomo, e così allora si vede a questi matrimoni gli uomini che dicono no, noi vogliamo lo spumante secco, altro che, il resto non è per noi. Ed è una visione assolutamente sbagliata, perché in questo caso la similitudine con il dolce non c'è, come c'è invece in un buon vino dolce, in un spumante dolce, non c'è assolutamente niente di male, anzi bere un buon moscato a fine pasto, credo, con il dolce adatto evidentemente, è assolutamente un godimento, non è niente che non ci vada. Io proprio il secco a fine pasto è una struttura che non va. Sentiamo Giorgio da Modena, buongiorno Giorgio. Sì, buongiorno Davide, volevo intervenire riguardo a una tendenza che ho notato spesso. Io sono un produttore, un appassionato, un degustatore, e vedo spesso cercare delle chiavi di lettura per il mondo del vino che spieghino tutto, non esiste, cioè il mondo del vino è così bello, è così interessante proprio perché è in continuo fermento, evoluzione, quindi bisognerebbe cercare di volere dei diktat leggermente di meno e addentrarsi in questo mondo molto di più. Sentiamo Andrea Grignaffini, è vero Andrea, bisogna togliere le regole, lasciar liberi le persone? No, questo sicuramente sì, anche perché se si vuole avvicinare un nuovo mercato al mondo del vino, costringere il cliente a troppe regole diventa davvero controproducente. Poi certe cose sono veramente datatissime, cioè la temperatura chambray è un concetto inglese ottocentesco, insomma, quando gli ambienti erano più freddi. Adesso bere vino, come giustamente dicevi tu, a certe temperature, molte volte, ahimè, suggerite dai produttori, è completamente deleterio, insomma, cioè il vino, anche perché acquista così tanto calore nel bicchiere, negli ambienti, che si rischia davvero a volte di rovinarlo nettamente. Beh, io leggo un SMS molto divertente, io con lo champagne mi ci lavo i capelli, ma era solo una laurea. Bene Adriana, complimenti. Sentiamo Leonardo sulle regole. Leonardo, è meglio abbandonare le regole, no? Ma sai, le regole secondo me servono come in tutte le cose, no? All'inizio uno deve avere un minimo di strada, ha un bisogno di sicurezza, soprattutto perché si vuole in qualche modo vuol cercare di capire qualcosa, ma in realtà poi, come stiamo dimostrando con questo dibattito, ogni caso è da prendere a sé stante. Fra le regole, ora dico così, mi veniva in mente le bollicine, ma per quanti anni si è visto i bar mettere un cucchiaino sulla bottiglia perché si pensava che non svanisse tutta la parte dell'anidride carbonica? E siamo andati avanti per anni a farlo senza pensare che era completamente inutile, seguendo una regola non scritta e addirittura una regola sbagliata. Quindi ecco, attenzione alle regole. Bene, grazie a Andrea Grignaffini e Leonardo Romanelli. Sentiamo radioascoltatore Franco da Torino. Buongiorno Franco. Sì, buongiorno Davide. Senta, io volevo intervenire per un luogo comune sull'Arnese. Sì. A quanto pare bevuto alla sera agita e non fa dormire, è vero o no? Beh, io l'ho bevuto diverse volte e non mi è successo, però non è detto che a molti possa anche succedere. Se c'è qualcuno in trasmissione, in ascolto, che può dare una risposta molto più scientifica della mia, ben volentieri. Grazie Franco. Sentiamo, abbiamo con noi Filippo Bartolotta. Filippo Bartolotta è un giornalista, un degustatore globetrotter che gira il mondo facendo assaggi di vini italiani un po' in tutto il mondo. Gli voglio chiedere, Filippo, ma all'estero, specialmente negli Stati Uniti, i luoghi comuni nel mondo del vino sono molto diffusi? Sì, ne ho collezionati un libro, cioè, sto per pubblicare un libro, potrei dire, no, scherzi a parte, ce ne sono tantissimi, a partire da soprattutto i solfiti, spesso gli americani o non solo, gli australiani vengono qui in Italia, bevono il vino e fanno sempre la domanda: ma quando torno a casa e bevo lo stesso vino sento, ho più mal di testa, e perché? E loro dicono: perché ci mettono più solfiti per far viaggiare il vino. E questo è un primo luogo comune, da sfatare assolutamente, anzi è vero il contrario. Parlavo proprio stamattina con un produttore, giovane produttore di Lessona, Luca De Marchi, mi diceva che come alcuni vini in realtà nei mercati stranieri e soprattutto GGT partono con gli stelvin, quindi con i tappi a vite, e questo significa che la solforosa all'interno della bottiglia è addirittura minore di un terzo, e quindi questo è un primissimo luogo comune, ma ce ne sono tantissimi. Beh, sentiamo Gualtiero Panciroli di Rovello 18 a Milano, che è un ristoratore che segue serve larga parte dei vini bianchi che ha in carta, mai in frigorifero, mai freddi. Sentiamo perché. Buongiorno Gualtiero. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Perché quei vini lì sono fatti, sono quei cosiddetti vini naturali, fermentati sulle bucce, e se li raffreddiamo troppo gli portiamo via il cuore, gli portiamo via il frutto. Se lo raffreddi lo squilibri, perché gli aumenti quello che è il tannino, ciò che invece dovrebbe essere una giusta proporzione. Non è molto compreso, però vedo che dopo che dai la bottiglia, che comunque gliela prendi al tavolo, dopo la tolgono dal secchiello e lo bevono a temperatura sui 15, 16, 17 gradi. Ecco, questo è che mi gratifica. Bene, bene, bene. No, poi è importante sapere questo giudizio, è importante anche la reazione del consumatore. Bene, ora cambiamo leggermente argomento, perché rimaniamo ovviamente sempre nel vino dei luoghi comuni, con Angelo Peretti, che è un giornalista, ma anche direttore del consorzio del Bardolino. E volevo fare un discorso particolare a cui penso lui sia sensibile. Di solito si dice che il vino si apprezza in degustazione solitaria, magari in una stanza buia, senza silenzio, ma questo può essere un luogo comune oppure può essere una regola, ma può essere anche una regola accostarlo e apprezzarlo vicino al cibo, vero Angelo? Ma assolutamente sì, buongiorno Davide, buongiorno gli ascoltatori. Il vino, a mio modo di vedere, nasce per accompagnare la tavola, per accompagnare il cibo, la cucina, e nasce per la convivialità, cioè per il vivere assieme attorno al desco, attorno alla tavola. Onestamente l'onanismo enologico non mi piace molto, insomma, bersi il vino da solo lo trovo tristissimo, un po' come in Side Aways quando l'attore beveva lo Cheval Blonde 45 nel bicchiere di carta al fast food, insomma, un po' triste. Il vino va bevuto in compagnia mangiando, questo è il mio punto di vista. E in questo modo si apprezzano anche le qualità di un vino, i profumi, i sapori, si apprezza ancora di più forse? Ma ho provato più volte con degli amici, con dei giornalisti, con degli appassionati, con dei semplici curiosi. Lo stesso vino in degustazione da solo e accompagnato al cibo cambia completamente nelle percezioni. La valutazione che dai del medesimo vino è completamente diversa in molti casi a seconda che tu lo assaggi da solo o che tu lo assaggi col cibo. Abbiamo 10 secondi per Francesco da Milano, l'ultima intervenuto. Prego Francesco, velocissimo. Sì, allora per dire che appunto in un bellissimo pranzo in Alsazia mi sono fatto portare dal Gewürztraminer millesimato, 150 euro la bottiglia, mi arriva nel secchiello di ghiaccio, e che dico non esiste, mi ammazza Allora questo chiama il direttore, il quale si scusa e mi riporta un'altra bottiglia identica, stessa annata, da 100 euro, me la riapre e me la serve a temperatura cantina. Bene. Meraviglioso. Grazie. Ultima cosa, sì. Ultimissima. Sì. Il vino rosso ha poteri curativi perché aiuta a eliminare gli isotopi radioattivi. Grazie Francesco da Milano. Allora io ringrazio Gualtiero Panciroli, ringrazio Filippo Bartolotto, purtroppo non ho più tempo, però vi ho fatto già intervenire su, diciamo, i luoghi comuni che volevo che interveniste. Quindi chiudiamo questa trasmissione, così è stata abbastanza divertente, non abbiamo creato regole, non vorremmo mai creare regole, abbiamo creato un po' così di riflessione su quelli che sono i luoghi comuni e le regole stesse. A tutti auguro una buona settimana.